feste con le toghe in legno. La tua schiena non è poi così importante. Se il mondo è materasso allergico, siamo tutti acari della polvere. Entra nell'ordine delle priorità, anche se hai problemi di cervicale. C'è un autogrill a 3 chilometri, un caffè, guardarsi nelle telecamere. Capo della Digos, che forse ha visto troppi telefilm. Lui spara ma non uccide mai nessuno, proprio come faceva Lettin. Ma se ridi in faccia lo sceriffo, poi trovi la tua taglia sui giornali. Li hanno incastrati grazie ai filmati, li hanno denunciati, poi processati, li hanno condannati. Trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, tue arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo.